solo momenti sì nella vita che ricordo ancora anche con fatica. Ci sono momenti che vivrò e nel cuore io ti porterò. Ci sono situazioni che mi hanno fatto crescere. Ci sono situazioni che forse un giorno vivrò con te. Se tu sei tutto per me, se non sei l'unica che, se la mia mente vola via come un erone, una bugia in questa piccola città. E chissà cosa mi aspetterà. Ci sono batoste che ho preso già e le scelte sbagliate quanto male mi fa. E forse è andata meglio a te che nell'amore voluto me. E provo e riprovo ma non cerco più una dimensione o qualcosa in più. Ma la risposta vera qual è? Se mente io solo un perché. Tutto per me, se non sei l'unica che, se la mia mente vola via come un erone, una bugia in questa piccola città. E chissà cosa mi aspetterà.